Riflessioni da Marte. Questo da Marte, puntando il telescopio verso l'Italia declassata, che ancora rischia di diventare frittata, si intravede un barlume di speranza nel fosco che s'avanza. E mollando la rima baciata per creanza, diciamo che non è vero che nella penisola italica c'è solo precarietà e disoccupazione. Anche in Italia può realizzarsi il sogno americano, solo che è italiano, è tutta qua la differenza. Avete in mente come negli States, quando si dice, a dire la verità si diceva più prima, che l'usciere cammina può diventare direttore di banca? Ebbene, questo stesso sogno di ascesa sociale può concretizzarsi anche su suolo italico e senza alcuna distinzione tra nord e sud in un comune unificante riscatto patriottico. Prendete il caso straordinario della Sicilia. Il governatore Siculo, dimostrandosi scevro da ogni razzistico pregiudizio, libero da ogni odioso preconcetto, ha assegnato una poltrona in una società partecipata dalla regione a un detenuto. Non si dice forse che il carcere deve tendere alla riabilitazione del carcerato? Ed ecco allora che il governatore della Sicilia si è speso pedagogicamente in questo senso. Qualcuno però informa che il governatore in realtà non ne sapeva proprio nulla che l'assegnatario della poltrona fosse in carcere, e in carcere per stalking. E vabbè, una distrazione da stress se la possono permettere un po' tutti, via. Il governatore si è anzi giustificato dicendo così: il nominato è stato trattenuto per un reato, lo stalking, che certamente non attiene alla sua attività professionale. Come dire, fosse stato anche uno stupratore, ciò non aveva comunque nulla a che fare col ruolo assegnatogli da revisore dei conti. Insomma, nella bella penisola tutti possono avere una chance, basta che i reati non abbiano a che fare con determinate professioni. Tutto qua. E da sud spostiamoci a scoprire ulteriori motivi di speranza al nord. Ricordate Belsito, l'uomo che da autista divenne il tesoriere appassionato di diamanti della Lega? Ebbene sì, si è saputo che grato alla dea bendata per la sua irresistibile, almeno sino a poco tempo fa, ascesa, ha voluto generosamente che il miracolo si ripetesse anche per qualcun altro. E così, da consigliere di amministrazione della Fincantieri, quale anche era Belsito, caldeggiò l'assunzione come dirigente, sempre della Fincantieri, dell'autista di Bossi. Fare l'autista evidentemente un ottimo trampolino di lancio, il quale Bossi nel frattempo lo aveva portato a Roma, il suo autista e bodyguard, come suo capo di gabinetto al Ministero delle Riforme. Sollevate dunque i vostri animi, o voi che ascoltate e a torto disperate. In Italia, come vedete, c'è davvero un'occasione per tutti. Facciamo finta che tutto va bene, tutto va bene. Facciamo finta che tutto va bene. Che il povero sia in fondo un gran signore, che il servo stia sempre.